Siamo con Stefano Caretti, curatore dell'esposizione a Palazzo Roncale a Rovigo, dedicato a Giacomo Matteotti. Ci avviciniamo alla data del 10 giugno, a tale proposito faremo un approfondimento nella rubrica In Mostra di Radio Città Fujiko. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno e da Firenze saluti agli ascoltatori emiliani, da un ferrarese esule da 60 anni a Firenze. E quindi mettiamo insieme diversi spazi, siamo internazionalisti, ecco. Sì, sì certo, però che sia una radio di Bologna mi fa piacere. Ah, questo fa anche piacere a noi, accogliere per tali contenuti. Entriamo in mostra allora, a proposito di questa immensa figura. Ci può illustrare un po' il percorso entrando a Palazzo Roncale? Sì, una premessa. Fino al centenario di Matteotti c'era soltanto un riferimento toponomastico. Tutti si sono occupati unicamente per anni e anni del delitto. Chi fosse Matteotti? L'uomo, i suoi affetti, le sue passioni, lo studioso, il politico, non si sapeva nulla. Ora sono uscite una ventina di biografie. La mostra cerca di restituire appunto un Matteotti vivo nella sua realtà polesana, il suo impegno poi come parlamentare, la sua partecipazione a convegni internazionali sul problema della questione delle riparazioni. Era un politico molto apprezzato all'estero. E oltretutto ha avuto, per quanto riguarda una presenza sia vicina alle classi più sofferenti, è un territorio già di per sé molto particolare, quello polesano. Ricordiamo che lui è di Fratta Polesine e arriva da una classe abbastanza abbiente, se vogliamo, ma la sua presenza sarà subito vicino alla classe lavoratrice. Sì, viene da una famiglia agiata ma che è partita dal nulla, il padre era un trentino, un calderaio, che avevano la fortuna a Fratta di avere l'unico bazar, diciamo, e quindi piano piano poi hanno investito in terreni e poi hanno creato una proprietà terriera non indifferente. Diciamo che Matteotti nel 21 alla Camera dei Deputati dice: io mi sono avvicinato giovanissimo al socialismo, lui si iscrive a 13 anni alla Gioventù Socialista, proprio perché colpito da una realtà che è difficile da immaginare, una popolazione che aveva il 70% di analfabetismo, che moriva quasi di fame, mangiava solo polenta e quindi soggetta alla pellagra, e molti poi dopo erano costretti ad emigrare all'estero. Ecco, lui è colpito, lo dice, sono stato colpito da questa, diciamo dagli ultimi, se vogliamo usare questa espressione, ma in questo seguendo inclinazioni anche dei fratello maggiore Matteo, che era un grande economista e che muore giovane per la tisi. Nella mostra Polesine emerge attraverso tutta una serie di documenti e di fotografie, quindi il suo contesto locale e poi si prosegue. E quindi è divisa in sezioni per avere una specificità di tutto ciò? Sì, è divisa in sezioni, il Polesine, la sua attività come amministratore, organizzatore. Lui dice in una lettera alla moglie: vorrei 10 vite, una di queste vorrei essere stato un architetto. Ecco, io lo definirei un costruttore, vale a dire anche mettendoci di suo, e lui su una realtà dove i socialisti erano ben poca cosa, comincia a costruire circoli, leghe, cooperative. Ecco, e questo è tutto documentato. Poi c'è il momento della guerra, sarà un oppositore della guerra, come del resto il Partito Socialista. Poi si passa alla fase successiva del parlamentare, ma il tutto anche con un riferimento ai suoi studi, che poi lascerà, ma con una serie di pubblicazioni di diritto penale, e poi appunto il suo impegno in Parlamento, in poco meno di 4 anni, terrà circa 105 discorsi di carattere soprattutto economico e giuridico, e più tardi, con l'avvento del fascismo, anche dei discorsi di carattere politico. Arriveranno in mostra, o ci sono in mostra per meglio dire, anche documenti sui discorsi di Matteotti? C'è qualche riferimento ai suoi interventi più significativi. E poi non dimentichiamo, c'è la parte privata, e cioè il Matteotti che è anche appassionato alla vita, in tutte le sue manifestazioni, lo sport, canottaggio, equitazione, alpinismo, e sono tutti appunto anche lì richiamati. La moglie Veglia, un intellettuale che pubblicherà poi un romanzo, i figlioli, ecco, tutto questo è ripercorso con una serie di foto. Sì, direi questa è una documentazione molto importante. La vedova affidò al più grande fotoreporter dell'epoca, Paul Ripastor, è uscito anche un volume su di lui, l'incarico di documentare da un lato per esempio gli omaggi sul Lungotevere di politici ma anche della popolazione, e poi le ricerche che durano 2 mesi fino al ritrovamento, per chiudere poi con i funerali a Frattapolesine. Che saranno partecipatissimi, tra l'altro. Ecco, nonostante minacce da parte degli squadristi, confluirono in un paesino di 3.000 abitanti oltre 30.000 persone, ma per esempio alcuni ferraresi che erano andati in bicicletta, le faccio un esempio fra tutti della mia città, furono poi in seguito attesi in imboscate, quindi pagarono anche questa loro partecipazione. Provenienza della documentazione? La documentazione innanzitutto è l'archivio della famiglia Matteotti, che è custodito dalla Fondazione di Studi Storici Filippo Turati di Firenze. Si aggiungono per il Polesine le carte dell'archivio di Stato di Rovigo, ci sono contributo per esempio della Fondazione Kuliscioff di Milano, della Fondazione Salce per quanto riguarda degli splendidi manifesti. Molti hanno contribuito, diciamo. Sarà fino al 7 luglio, se non vado errato, a Palazzo Roncale, che è attentissimo all'aspetto culturale, nella specificità territoriale. Ciò non toglie che ovviamente qui stiamo parlando in maniera quanto mai estesa. Quindi io la ringrazio tantissimo per questa conversazione e appuntamento in mostra con Radio Città Fujiko. Grazie e buona giornata. Arrivederci.